non ti ricorda il vento nel marciapiede della via, non ti ricorda il letto che scalda un'altra che si crede mia, non ti ricorda il cielo che si spalanca su di me, non ti ricorda il nero che come sempre in fondo al buio c'è. Ma io ricordo e già mi perdo nel dolce accordo del tuo concerto. Gordo.